Mix 24 di Giovanni Minoli. Abbandonare i vecchi schemi, porti sicuri, se serve uccidere il padre, politicamente si intende. È quello che hanno dovuto fare per vincere i due trionfatori del primo turno delle presidenziali francesi. Macron non è soltanto il più giovane presidente della Francia, è anche il primo inquilino dell'Eliseo che abbia vinto a dispetto dei partiti. Donald Trump, l'outsider, che ha impallinato uno dopo l'altro tutti i cavalli di razza del partito nel primario, ha scompaginato i piani della machine del partito repubblicano. Né di destra né di sinistra, dice Macron, perché a contare non è più l'ideologia, ma la capacità di parlare al paese. Si chiamano movimento, ma ha fatto un po' ridere una volta Bersani dalla Gruber, che la Gruber gli ha detto: avete fondato questo nuovo partito? L'ha detto: non è un partito, è un movimento. Io vedo che i partiti si stanno tutti frazionando, scindendo. Noi l'avevamo pensato, il Movimento 5 Stelle ha, grazie a Dio, dico anche, causato questa scissione all'interno della partitocrazia che per me è responsabile dei disastri dell'Italia. Auguri pure a loro, insomma, noi andiamo avanti per la nostra strada. Buongiorno, bentornati su Mix 24. Le elezioni francesi ci hanno mostrato un fatto inedito. Appunto, un presidente della Repubblica eletto senza avere un partito a seguito. Abbiamo il precedente di Trump in America. Soprattutto in Italia abbiamo anticipato con Beppe Grillo un po' tutti, un comico senza partito che ha successo col suo movimento, come ha ricordato Alessandro Di Battista la settimana scorsa di martedì. Ecco, è questa la nuova stagione della politica? Ne parliamo. Maurizio Molinari, buongiorno, direttore della Stampa. Ecco, buongiorno. Ecco Maurizio, Macron è diventato presidente senza un suo partito. Che significato ha secondo lei questo fatto politico? È la conferma che essere deboli nelle democrazie avanzate in questo momento sono i partiti tradizionali, perché non affrontano le emergenze che stanno a cuore ai cittadini, le diseguaglianze economiche, il terrorismo, e naturalmente gli immigranti. Ecco, ma l'elettorato quindi segue da fiducia politici che parlano senza timore di parlare di una disparità del reddito, di un problema serio nelle retribuzioni di chi resta indietro. C'è in questo un'assonanza tra Macron e Trump? Assolutamente sì, sono due leader rivoluzionari in quanto esprimono la volontà di cambiare l'establishment in maniera radicale, ed è interessante che entrambi esprimono nazioni rivoluzionarie. L'America e la Francia sono state protagoniste delle rivoluzioni che sono state la base dei diritti di cui tutti noi oggi ci gioviamo, e oggi ancora innovano in maniera drammatica l'Occidente. Ecco Molinari, in Italia però noi abbiamo anticipato in qualche modo tutti con Grillo, in questo siamo un laboratorio politico, si può dire. Ma Grillo è una novità, in quanto è la ancora prima volta di più, diciamo. Diciamo che Grillo e i grillini sono una novità nella misura in cui esprimono un partito o un'organizzazione, un movimento che nasce da internet. Questa è la vera novità. Ecco, però anche Grillo parla della distribuzione del reddito, addirittura è stato il primo a proporre il reddito di cittadinanza. C'è un fattore comune tra elettorati che sono diversi, trasversali? No, c'è una come... differenza di fondo fra Macron, Trump e i grillini. Macron e Trump rispettano le istituzioni che vogliono innovare. Mm. Grillo invece le affronta in maniera frontale, sembra che le vuole abbattere. Mm. Ecco, quando la piazza l'altra sera ha fischiato gli elettori della Le Pen, Macron ha detto no. Io rispetto chi ha espresso quel voto, facendo un passo avanti. Insomma, non sarebbe anche l'ora in qualche modo di archiviare la parola dispregiativa di populisti? Assolutamente, la realtà è che noi adoperiamo il termine populista perché non sappiamo definire i movimenti esatto. di protesta. E poi ricordiamoci che ad esempio nell'accezione politica americana populista non è un termine negativo. È da noi che ha assunto questa caratteristica dispregiativa, diciamo. Assolutamente, la realtà è che l'Europa non sappiamo come chiamarli. Sono spazzati da un movimento di protesta che nasce dall'incapacità dei partiti tradizionali di affrontare l'emergenza dei cittadini. Ecco, lei pensa che con l'elezione di Macron l'Europa sia salva o Bruxelles potrebbe commettere l'errore di dire il pericolo è passato, facciamo come prima? C'è questo pericolo? No, io credo che Macron sia la sfida più intelligente, efficace e pericolosa per Bruxelles. La realtà vera è che lui vuole innovare profondamente l'Europa. Quando lui dice che l'Europa deve essere più vicina ai cittadini, la tratta innanzitutto come un soggetto politico unico e la chiama alle sue responsabilità. Sì, dice anche però che il patto con la Germania sarà il patto di partenza, diciamo, su cui costruire questa novità, no? E questo deve farci riflettere, perché la realtà vera è che la Germania si presenta ancora oggi come il paese più in grado di cambiare le cose in Europa, soprattutto per l'assenza degli altri. Ecco, ma della fine dell'euro non se ne parla più, o sbaglio? Ma ne parlano i movimenti di protesta. No, ok, ma sempre meno. Anche Salvini l'ha un po' nascosta, la Le Pen alla fine non ne parlava più. C'è questa formulazione alla quale bisogna fare attenzione, delle due monete parallele. Sì, la Le Pen l'ha detto, in qualche maniera anche Silvio Berlusconi lo ha detto. Sì. Ed è una delle idee di cui si discute all'interno della Banca Centrale Europea. Certo. La maggioranza ovviamente è negativa, però se ne Se c'è l'euro mediterraneo, diciamo, anche in qualche modo, no? Sì, la convivenza, fra due monete. Ecco, il Partito Socialista in realtà comunque è scomparso e la destra repubblicana non è riuscita per la prima volta nella storia ad andare al ballottaggio. Quindi diciamo che sono finiti i partiti del Novecento, poi vedremo le elezioni legislative, però insomma per ora questo è lo scenario. Assolutamente, la situazione dei socialisti direi è drammatica, certo. Perché se noi vediamo che il loro candidato ha preso il 6% in Francia, il partito è stato polverizzato dalle elezioni in Olanda, in Gran Bretagna Corbyn è dato dai sondaggi in grande difficoltà in vista delle elezioni nella sfida con i conservatori, la realtà vera è che i partiti socialisti europei nel complesso attraversano la fase più difficile, perché sono, attenzione, quelli che per primi dovrebbero rispondere alla diseguaglianza, esatto, che sono appunto una sfida che ha a che vedere con i ceti deboli che dovrebbero essere i loro elettorati. Invece non si sente protetto e va verso i partiti di protesta. Ed è come se la sinistra i socialisti si fossero schiacciati invece sulla globalizzazione, le persone, i simboli della globalizzazione pura. Assolutamente, questo è il vero elemento di debolezza di una sinistra che non è stata capace di rigenerarsi. Ed è paradossale, perché la globalizzazione ha creato delle istanze di sinistra da parte dei deboli, certo, che non vengono in questo momento non vengono, cioè, ecco, Renzi, per parlare di noi, era partito come rottamatore, quindi in qualche modo anticipava questo discorso. Adesso invece si trova a essere il capo di un partito tradizionale che ha vissuto addirittura una scissione. Ecco, rispetto a quelli di Macron, l'esperienza di Renzi rischia di essere invecchiata improvvisamente? Ciò che più colpisce nella differenza fra Macron e Renzi è che Macron parla costantemente di diseguaglianze. Nel primo discorso che ha fatto dopo il risultato ha parlato per 12 minuti, per 6 minuti ha parlato di diseguaglianze. Il termine diseguaglianze molto raramente appare nel linguaggio di Renzi. Certo. Ecco, i partiti populisti non vanno al governo in Europa, però i loro voti, se uno guarda bene, se si guardano i numeri, crescono continuamente. Macron sembra quasi come un'ultima chiamata per l'élite europea e francese, pur in una chiave rivoluzionaria, come dice lei? Credo che sia un'occasione da non perdere per l'establishment europeo. Se la sfida di Macron dovesse essere perduta, attenzione, perché anche la Francia potrebbe essere in bilico. Se noi sommiamo i voti di Le Pen al 25% di astensioni, al 12% di schede bianche, attenzione, Macron è un presidente di minoranza. Di minoranza, e ieri sono già cominciate, come dire, contestazioni immediate fortissime. Bisogna tenere presente che i tre problemi di cui stiamo parlando, diseguaglianze, terrorismo e migranti, sono problemi reali, destinati a ridisegnare le nostre società. Sì. O i leader li affrontano o vengono travolti. Sì, non si possono evitare. Ecco, il discorso di Macron la sera del voto, però la liturgia nella piazza del Louvre, il senso monarchico in qualche modo che veniva da quella cerimonia, è impensabile da noi. Il nostro ritardo è anche quello di non accettare il fatto che le istituzioni devono essere forti e che forse un uomo forte è necessario a capo dello Stato. Devo dire che di fronte a quella passeggiata di Macron sulla spianata dell'Eliseo con l'inno alla gioia, mi sono venute in mente la formalità della corona britannica, sì, e della grande democrazia americana. L'Occidente ha tre capitali, che sono Washington, Londra e Parigi, perché sono tre popoli che hanno fatto della democrazia un rito collettivo. E questo è l'elemento che a noi ancora manca. Manca ancora completamente. Ecco, il richiamo del populismo per adesso non ha esiti di governo in Europa, però nell'anglosfera si è tradotto in Trump, nella Brexit e in Theresa May. È segno che Stati Uniti e Regno Unito sono mondi davvero sempre più diversi da noi, anche se noi adesso abbiamo espresso Macron, noi dico Europa. Ma io credo che ciò che distingue queste tre grandi capitali è che tutte oggi esprimono un vento di protesta. Trump è frutto della protesta contro l'establishment. Theresa May è frutto di Brexit, della protesta contro l'Europa. E Macron è frutto della protesta contro i partiti tradizionali. Attenzione, perché nel cuore dell'Occidente la protesta sta arrivando al governo. Ecco, in Italia si è aperta la corsa della sinistra al Papa straniero, come al solito. Non è un po' stucchevole e senza contenuti questa corsa tutta italiana a mettere la bandiera sul vincitore di turno, in questo caso Macron? Sì, dovremmo pensare a trovare soluzioni italiane ai problemi italiani in chiave europea. Abbiamo una tradizione capace di innovare, bisogna attingere a questo. A proposito di innovazione, Beppe Grillo alla fine rischia di essere, per incapacità altrui, incapacità di definirsi, rischia di essere il più originale di tutti. Assolutamente, se i grillini avanzano è perché gli altri non sanno cogliere le loro novità. Quindi non sarebbe il caso di dire con chiarezza, sempre in questa chiarezza che dovrebbe aiutare a scegliere, il caso di dire che Grillo ha dei meriti, che pensiamo al reddito di cittadinanza, gli altri partiti hanno copiato adesso a piene mani da Grillo, ognuno a modo suo, è vero? Il reddito di cittadinanza ha il pregio di essere un messaggio che trasmette il concetto di protezione a chi ne ha bisogno. Le famiglie indebolite e disagiate hanno la percezione di che chi parla di questo tema si interessa di loro. Così come le attività di base che i grillini fanno in alcune città, come ad esempio Torino, sono parallele a quelle della Chiesa per i disagiati. Esatto. E sono questi i terreni sui quali bisogna rispondere alla loro sfida. Se non si risponde, chiaramente vanno avanti. E infatti è anche una domanda da farsi: è cosa sarebbe successo di quel corpo elettorale un po' abbandonato, senza rappresentanza, senza Grillo? In fondo li ha tenuti dentro una dinamica parlamentare. L'osservazione è corretta, l'interrogativo è perché non fa crescere questa dinamica parlamentare. La realtà vera è che all'interno dei grillini c'è poca democrazia rappresentativa. Loro operano sostanzialmente come un'emanazione di una società privata che è la Casaleggio. Il dibattito interno è a livelli molto bassi e questo si vede su alcuni temi come la politica estera e l'economia, dove loro il livello di proposte è assolutamente insufficiente. Ecco, la Le Pen ha detto che rinnoverà il Front National e farà una politica di alleanze. È una sfida aperta alla destra repubblicana. In fondo, negli ultimi giorni della sua campagna elettorale, i riferimenti della Le Pen a De Gaulle erano sempre più forti. Devo dire che è stata una mossa molto brillante. Sì. Quando lei ha detto cambierò il nome al Fronte Nazionale, creerò uno schieramento di patrioti, lei ha capito che i voti di Mélenchon, la sinistra estrema francese, non sono andati a lei perché il Fronte Nazionale ancora evoca la collaborazione con i nazisti, il fascismo e quanto di peggio c'è stato nella storia nazionale. È stata la dimostrazione che lei ha capito che il fronte della protesta non può essere incarnato da vecchie sigle. Esatto. Il Front National non basta più. Ecco Molinari, ieri i tassi di interesse dei BTP si sono alzati. I mercati temono che sarà l'Italia a far saltare il banco dell'Unione Europea? Non c'è nessun dubbio che oggi la preoccupazione è l'Italia. Cioè lei cosa ne pensa? Il rischio c'è? Dal momento stesso in cui Macron è stato eletto, il rischio finanziario si è spostato dalla Francia all'Italia e resterà sull'Italia. L'interrogativo adesso è la sovrapposizione col voto tedesco. Se chiaramente la Germania dovesse votare, come prevedibile, vincerà uno dei grandi partiti o con Schulz o con la Merkel, a quel punto le preoccupazioni aumenteranno ancora nei confronti del nostro paese, ecco, soprattutto per la coincidenza fra l'imponenza del debito e la carenza della crescita. Ecco, però le faccio una domanda di questo genere. In Europa, per discutere la nuova Europa, della quale in qualche modo comunque sia la Francia che la Germania vorranno discutere, l'Italia per presentarsi a quel tavolo dovrà avere un governo nella pienezza della sua forza. Non potrebbe essere quella una buona ragione per delle elezioni anticipate? Il punto non è se le elezioni avvengono a settembre o no, a per avere gennaio. un governo pienamente rappresentativo e votato, diciamo. In realtà che ogni governo va bene, anche il governo di Gentiloni va bene. Il punto è che bisogna fare le cose che servono, bisogna abbattere il debito e rilanciare la crescita, tagliare la spesa pubblica, tagliare le tasse e favorire gli investimenti. Cioè, ci sono delle cose di fondo che il mondo finanziario conosce oramai da anni e che il nostro paese non fa. Ecco, un'ultimissima cosa, e la ringrazio Molinari, sulla politica estera di Trump. Trump andrà in Arabia Saudita, in Israele, in Palestina, poi incontrerà il Papa, cioè arabi, ebrei e cristiani, prima di andare alla riunione della NATO. È una scelta che ha un senso, secondo lei? Una strategia? Sì, perché conferma che Trump è un presidente anomalo. Per lui i messaggi devono essere portati direttamente alla base, ai movimenti, alla gente, ai popoli e alle religioni. La sua geografia politica è diversa dai suoi predecessori. Anche per questo è una scommessa. Grazie Molinari. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, mi sembra davvero una riflessione profonda, sì, quella di Molinari. Condivido tutto, condivido tutto. Aggiungo che secondo me lo sforzo ulteriore da fare è nella direzione di cercare di ridisegnare il modo di interpretare il cosiddetto populismo. Infatti, il populismo è una cosa, è una parola che copre tutto e quindi non si specifica. La sua storia è molto interessante, ha origini nobili, viene dal russo narod, vuol dire popolo, è tutto un altro film. È stata usata per ora in modo improprio. È stata usata in modo improprio. E adesso alleggeriamo un po'. Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al proprio on di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Non servono anelli che ci tengono assieme, perché gli anelli sono fatte le catene. Seppur così presto non ne faccio altrimenti. Cuore in arresto, favorisca i sentimenti. Non servono anelli per tenerci assieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere, forse. Sì. No, vabbè. È in ginocchio. Con un anello. E lei ha detto sì. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso. E ancora una. Dunque, abbiamo sentito la proposta di matrimonio di Fedez, di cui parlano tutti, proprio alla sua Chiara Ferragni durante il suo concerto all'Arena di Verona in diretta su RTL. Insomma, a beneficio di tutti gli ascoltatori, i telespettatori. La scena è diventata subito virale sui social e l'apertura dei principali quotidiani online, prima dell'Alitalia, prima delle elezioni francesi, prima di tutto quest'amore fra Fedez e la Ferragni. Ecco, Selvaggia Lucarelli, giornalista di costume, brillante, buongiorno. Buongiorno. Ecco, tu hai dedicato a Fedez e alla Ferragni un post intitolato da così: come passare dal vorrei ma non posso a sì, lo voglio e lo posto. Insomma, direi che c'è un problema di coerenza, se non altro. Quindi lì c'è tutta la coerenza di un mondo nuovo, diciamo, no? Fedez, diciamo che insomma ha, nella sua canzone, detto e cantato è più importante condividerlo che viverlo, prendeva un po' in giro bonariamente Chiara Ferragni, questo suo vezzo di mettere anche il papillon di Louis Vuitton al cane. In realtà poi si è adattato a lei, ha vinto lei, diciamo. Lei ha vinto, stravinto. Ma ha vinto da qualche anno. Ma anche con lui ha vinto, ha vinto completamente. Insomma, in ginocchio c'era lui, diciamo, sostanzialmente. L'ha trasformato, insomma, era il rapper impegnato, ora è impegnato a farsi sposare. Ecco, volevo sapere una cosa, ma era tutto organizzato, marketing puro? Ma certo. Cioè, funziona il mondo dei social, funziona così. Il mondo dei social funziona così, ma Fedez è uno che ha puntato sempre molto a questo, è evidente in tutta la sua carriera, ecco, cui ha trovato il suo porto ideale in Chiara Ferragni, ecco, anche ma... perché lei gli apre una, insomma, diciamo così, mettono insieme carriera, tanti follower, insomma, ecco. Soprattutto all'estero. però, perché certo, quello esatto. che a Chiara Ferragni, che altre fashion blogger non hanno, è il fatto che lei sia molto conosciuta all'estero, quindi questo vuol dire che lui, tutto sommato, ora comincia a farsi un po' una fama anche oltreoceano. Ha voglia di superare, le nostre frontiere. Ecco, ma volevo sapere una cosa. Secondo te è un marketing con sentimento o un marketing senza sentimento? Questa è una bella domanda. Io credo che a quei livelli sia anche difficile distinguere dopo un po'. Credo che lo stabilirà la quotidianità del matrimonio, non nella scenetta sul palco. Non è la scenetta, quella non basta. Poi comunque puoi condividere sui social, puoi fare la dichiarazione d'amore in diretta nazionale, però poi sempre il pomeriggio, sempre la sera, la mattina, lì bisogna vedere com'è. Si può fare la mutanda sul pavimento, la strada sul pavimento, fa sempre discutere le coppie. Insomma, loro hanno costruito queste carriere grazie ai social, naturalmente. Perché tanto scalpore per questa proposta? In fondo sta dentro la cultura di oggi. Ma io credo perché tutta questa storia è stata vissuta... Perché è fantasticamente costruita con un marketing straordinario. Sì, però insomma quando vedi che tutto, qualsiasi momento viene necessariamente condiviso, un po' il dubbio ti viene, no? Cioè, nel senso, è chiaro che la foto la mettiamo tu, io stessa... metto la foto di mio figlio, metto la foto con mio fidanzato, eccetera. Ma perché le metti? Perché le metti? Cosa ti dà in più questa emozione? Ma che piacere ti dà? Ma è un momento di felicità, è come, guarda che prima hai paura di star sola? No, io non sto sola. No, voglio dire, no, perché questa ha bisogno di condivisione. È diventata psicanalisi questa intervista. No, mi interessa perché ti leggo sempre con molto interesse, allora ho questa opportunità, vorrei sfruttarla. No, senti, prima in fondo, quando non c'erano i social, si invitavano o non si invitavano gli amici a vedere il filmato del matrimonio, le foto del... Era un po' la stessa. Ma secondo cosa. Te è la stessa cosa? Cioè la distanza, il fatto di non essere insieme, ma proprio fisicamente, no, cioè è uguale, cioè i social superano tutto. No. Cioè fusione e confusione, fusione e confusione sono la stessa cosa adesso. Guarda, io non ritengo i social un'alternativa alla vita reale, al bar. Ci vai al bar, c'hai degli amici al bar anche tu. Almeno 4 li hai anche tu. Ma guarda, perché mi hai presa? No, ma voglio sapere. Io dopo questa intervista veramente vado dallo psicanalista. No, anzi, vado io dallo psicanalista. No, anzi, io vado al bar. Guarda, per me Mario Secchi dice che lui va al bar. Io vado al bar. Certo, per me è talmente importante che io faccio un viaggio almeno 2 volte al mese perché cerco di ricordarmi che la vita sta dall'altra parte. Ah, insomma, ecco, questo lo diamo per scontato che la vita è altrove, non solo sulle foto dei social. No, però non bisogna dimenticarsi che quello che accade sui social ha delle conseguenze sul reale, no. Quindi non bisogna poi distinguere in maniera così netta, no. Bisogna coltivare... diciamo che fusione e confusione tra vita reale e quella dei social fanno l'insieme della nostra vita di oggi. Direi proprio di sì. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché poi tutto sommato si fanno i conti, no? Anche Fedez ora è entusiasta e felice. Se le cose non andranno più bene, sarà così felice di avere la stessa attenzione? Da giornali, TV, eccetera, che spiattelleranno magari perché le cose non vanno più bene. Sarà drammatico, sarà drammatico, un momentaccio quello. Speriamo che non gli capiti. Soprattutto per la Però passione, sono giovani, però. Sai, la vita è alti e bassi, quindi. Senti, tu scrivi che Fedez, quando spettacolarizza, trasforma in marketing qualsiasi momento della vita. Ecco, ricordati che tutto questo un giorno avrà un prezzo. Un po' come il post di Chiara Ferragni. Ecco, questo, il prezzo qual è? Il prezzo è quello che sto dicendo. È questo, è che nel momento stesso in cui regali e lanci in pasto agli squali tutti i brandelli della tua vita, poi inevitabilmente qualsiasi cosa accada, anche quando magari saranno spiacevoli i commenti, avranno la stessa diffusione, no? Quindi certo. Se a un certo punto si lasceranno, non so se per Fedez sarà piacevole leggere ovunque. Vabbè, che speriamo, ti ha incontrato un altro, i suoi baci, le sue cose, le dichiarazioni d'amore, un altro in ginocchio che lo vuole sposare, sarà dura. Senti, ma volevo dirti una cosa, tu tra i tuoi ultimi post c'è uno che mi ha colpito. E scrivi: l'altro giorno mio figlio ha invitato a casa la ragazzina che gli piace. li sono andata a prendere. Lui esce accanto a lei, la precede, le apre lo sportello della macchina, lei sale. Io faccio finta di niente, però lo noto e penso che forse ho fatto un buon lavoro. Perché hai fatto un buon lavoro? Perché l'hai educato bene, dici? Perché io credo che il garbo, la gentilezza, l'essere ancora un po' gentiluomini, insomma, siano cose importanti da insegnare ai figli. È chiaro che non è la sostanza, perché la sostanza è altro. Io mi auguro che, insomma, faccia ben altro che aprire lo sportello alle ragazze. Vabbè, comincia bene, diciamo che comincia bene. È un buon punto di partenza. Senti, quella delicatezza che certo. Mi piacerebbe conservasse. Diciamo. Conservasse. Senti, ma a tuo figlio piace Fedez? No, gli fa schifo. Fa schifo? Ah, e perché? Non ama i rapper. È perché non apre la porta? La macchina? Può darsi. Si inginocchia. No, ma si inginocchia, è una rappresentazione un po' stereotipata, no? Inginocchio da te, sì. Ma probabilmente perché hanno l'autista che apre la porta. Appunto. Senti, tutte e due. E a te piace Fedez o no? No, la sua musica assolutamente no. Devo dire che mi era simpatico, col tempo ho cominciato a trovarlo troppo paraculo, troppo furbetto. Cioè, amavo di più la sua genuinità quando attaccava Salvini, no? Lo trovavo più coraggioso. In fondo si beccava un sacco di insulti, c'erano delle conseguenze anche sgradevoli. Adesso invece trovo che si sia calato nella parte del protagonista del segreto, di una soap opera. Senti, Selvaggio, un'ultima cosa, ma a te piacerebbe una proposta di matrimonio sul palco? Eh? Questa è una domanda infame, però, dopo tutto quello che ho scritto, ti pare che posso dirti di sì? Lo pensi senza dirlo, capito? Va bene. La preferirei nell'intimità. Va però bene. Tutte fondamentalmente abbiamo un po' invidiato non il gesto, ma l'idea che l'abbia ridotto così tanto a zerbino da fare un gesto del genere. Ecco, mettiamola così. Va bene, grazie, buon lavoro. Grazie, 800. Vado dalla psicanalista. Grazie, no, ciao. Ci vado io, andiamo insieme forse, facciamo un'analisi di coppia. Va bene. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Ecco. Mario. Oscar, un nostro ascoltatore, Oscar da Salerno, ci ricorda una cosa importante. Abbiamo parlato dell'Europa, della nuova Europa che deve uscire. Ci ricorda che oggi, e noi ce lo siamo dimenticati, 67 anni fa, proprio in Francia, venivano gettate le fondamenta dell'Unione Europea con la creazione della CECA, cioè della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. E di lì è partita l'Europa. Lui dice è importante ricordare i passaggi della costruzione perché sono ideali da non perdere. Mi sembra che Oscar, lo ringraziamo, ci ha ricordato una cosa molto importante. E così via, erano passaggi molto importanti. Pilastri. Poi esatto. È successo qualcosa però che non ha funzionato. Vabbè, però se uno si ricorda le cose buone può ripartire da quelle buone. Vabbè, certo. È meglio. Bisogna essere ottimisti. Sempre. Senti, andiamo con la bolla. Sì. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Piace pure a Miloni di insieme. Beh, questo è divertente, no? È molto divertente. Fa ballare. Ottimisti. Fa ballare. Ottimisti. Allora, ti ricordi tutto il dibattito sulla post-verità è molto interessante, perché a un certo punto cosa succede? Che spesso nelle campagne elettorali e non solo, diciamo nella quotidianità dell'informazione e della sua deformazione anche dei fatti, poi la gente si dimentica di dire: ma com'è finita quella storia? Allora, ve la ricordate la storia del dossier russo, anzi della spia inglese confezionato contro Trump, certo. Che diceva che aveva un sacco di relazioni con la Russia, che era andato là, fantastico. Ieri James Clapper, che è l'ex direttore dell'intelligence americana, è andato di fronte al Senato a parlare appunto del dossier confezionato dalla spia inglese Steele, e interrogato dai senatori americani ha detto la seguente cosa: su quel dossier non abbiamo raccolto nessuna prova, non ci sono prove. Ora, Quindi era vabbè, tutte balle, diciamo. Fake news. Una marea di balle colossale. Ed è un bel contrappasso dantesco il fatto che certo, chi parlava di fake news allora perisce in qualche maniera di fake news oggi. Pensa che quel dossier è stato usato per aprire un'inchiesta dell'FBI, questo secondo anche la CNN. Mm. Male. Dalle fake news alle bad news, alle in questo bad caso. News, cattive proprio anche. Molto. Sì, adesso sentiamo una storia che ci fa vedere un lato meno raccontato del paese che arriva dalla rete di Italia che cambia. Alessandra Fiori ha intervistato uno degli agenti del cambiamento. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Daniele Sabiuccio, Daniele Poddighe, Alberto Unali e Massimo Bonifacio sono handmakers, ingegneri e artigiani digitali che hanno ideato e realizzato Wood, la stampante 3D in legno. Proudly made in Sardegna, come inciso nel prototipo. Ecco, Massimo Bonifacio, 54 anni, era un ingegnere di quelli seri, come si definisce lui stesso. Ma perché una stampante 3D proprio in legno, Massimo? Sì, in legno perché raccoglie tante elementi sia tradizionali che innovativi. E il legno sostanzialmente consente di ridurre le vibrazioni che si creano nella stampante, che viaggia molto velocemente. Ecco, voi sostenete che la vostra stampante 3D Wood ha superato la definizione classica. Che cosa vuol dire? Sì, ci siamo stancati delle stampanti 3D in senso buono, nel senso che abbiamo cercato di fare una stampante che vada oltre, ovvero possa fare anche altre lavorazioni, possa asportare del truccio come fanno le vecchie frese, possa iniettare delle resine anche alimentari, la Nutella, la crema, le colle, eccetera. Ho sentito bene, la Nutella? Sì, anche sì, non ci piace molto la Nutella, ma ce la facciamo in casa, ma comunque una crema alimentare, sì. Ah, voi lavorate in uno scantinato di Cagliari e in quello che sembra lo studio di uno scienziato pazzo avete stampato anche un arto digitale per un bambino disabile, è così? Sì, abbiamo voluto partecipare a un progetto internazionale che si chiama Enable, Nable, che consente di stampare, di produrre degli arti per bambini che non hanno le dita in particolare. E consente loro di afferrare gli oggetti e la cosa bella è che ne vanno fieri, li vogliono colorati, li vogliono che si mettano in mostra, che dimostrino che loro fanno quello che fanno, insomma. Senta, un altro utilizzo per la stampa in 3D, si parla per esempio della ricostruzione dei monumenti distrutti dal terrorismo, ma la vostra Wood sarebbe in grado di farlo? Non un monumento intero perché ha dimensioni da banco, da scrivania. A noi è piaciuto dedicare il primo pezzo che ha stampato a Madre Terra, e cioè alla Sadomo e Sorco qui a Cagliari, che è una tomba dei giganti, e il primo pezzo che ha stampato è stato proprio un sito archeologico. Un'ultima cosa, qual è il futuro degli handmakers? Siamo nati in uno scantinato, ci siamo trovati ad una fiera e siamo pronti, quasi pronti, a mettere in commercio questa stampante, con sia in kit per chi lo voglia costruire da sé, sia finita per i più pigri, diciamo. Vorremmo creare un sito, una situazione, una realtà per cui i maker si trovino a loro agio, cioè trovino le cose che servono a loro, dettagli, progetti, prodotti. Grazie Massimo Bonifacio. Per altre informazioni su Handmakers e le altre realtà di Italia che cambia, www.italiachecambia.org. Italia che cambia è un bel network che racconta storie molto interessanti. Mario, c'è ancora una bolla? Sì. E questa minore ti piace? Meno. Questi sono i Daft Punk, va bene, lasciamo stare, va. Non dire niente. Dico senti, meno. Senti. Ho detto meno. Sì, ascolta, impara. Ma guarda che non bisogna avere tutti gli stessi gusti, eh? Ah, va bene. Stai zitto un attimo. No, infatti, non interrogarmi allora. Senti. Sto un pezzo meraviglioso. Un po' noioso. No, sì. No. Se lo ascolti in cuffia bene. Ma le cuffie qui, sai, qui sta controllando tutto. Allora, no, volevo dirti che sono usciti i dati del commercio tedesco e sono semplicemente strabilianti a proposito delle cose che ma sono tu lo state... sai il tedesco, no? Purtroppo no, io però leggo la stampa tedesca in inglese, perché ci sono un paio di edizioni di giornali tedeschi. Ne per noi sarebbe meglio studiare il tedesco, credo. Sì, però Minoli. Troppo difficile. Ho 49 anni, vado per i 50. Ma, guarda, io non ho più 30 tempo. Più di te, non, non ho più problema. Tempo per fare queste cose. Devo studiare tanto, ma non il tedesco. Vai, allora, il tedesco dai. Lo faccio in inglese. Allora, no? Questo commercio? Questo commercio tedesco va come un treno ad alta velocità. Pensa che sia per l'import che per l'export, sono usciti adesso i dati di Destatis, hanno toccato entrambi il record assoluto. 92,9 miliardi le importazioni, 118,2 miliardi le esportazioni. Anno su anno, per darvi un'idea di che cosa è l'economia della Germania, è cresciuto l'export, è cresciuto del 10%. Accidenti. Il surplus commerciale è più di 20 miliardi già adesso. E che lo spendessero, sai, sono soldi delle imprese, sì, non sono, le imprese fanno quello che vogliono. 800 investissero in Italia, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms pubblici. Mix 24. Io sapevo benissimo che il problema era dato dalle Brigate Rosse e dallo stato di destabilizzazione in cui versava l'Italia. Io sapevo dunque che Aldo Moro sarebbe stato il fulcro da sacrificare intorno al quale ruotava la salvezza dell'Italia. Il sacrificio di Aldo Moro per la stabilizzazione del paese è la teoria di Steve Pichenik, consulente del Dipartimento USA sul terrorismo, uno dei componenti del comitato di crisi voluto dall'allora ministro dell'interno Francesco Cossiga. Comitato nato durante il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Quando rompe il silenzio, Pichenik rivela strategie messe in atto, manipolazioni e inediti particolari sui 55 giorni che passarono tra la strage di Via Fani e il ritrovamento del cadavere di uno degli uomini politici più importanti d'Italia. Io volevo che l'opinione pubblica italiana demolisse ogni forma di legittimazione delle Brigate Rosse. A quel punto mi sono detto, se io fossi il capo delle Brigate Rosse, libererei Aldo Moro. Invece i brigatisti sono caduti nella trappola e hanno detto, porteremo a termine la sua condanna a morte. Io ho pensato, è assurdo, avrebbero dovuto rilasciarlo. Ci avrebbero guadagnato tutti, ci avrebbero guadagnato i comunisti, le Brigate Rosse avrebbero dimostrato di avere il senso della pietas, ci avrebbe guadagnato tutta la Democrazia Cristiana. Invece si sono andati ad infognare nella loro stessa trappola, la trappola che peraltro gli avevo teso io. Volevano essere spietati e io li ho fatti diventare spietati. Questo era proprio ciò che io definisco terrore e controterrore. Mi stavo servendo del terrore proprio per stroncare quello stesso terrore che loro stavano disseminando. Io sapevo che Moro sarebbe morto perché sapevo che le Brigate Rosse non avevano altra scelta. Avevano perso. Dopo il giornale radio, a 39 anni appunto dal ritrovamento del cadavere di Moro, vi riproponiamo questa importante intervista di Steve Pichenik. E adesso, no Mario, questo è interessante, questo Pichenik, sì, che è un personaggio con chiari scuri, però certamente, essendo stato vicino a Cossiga... La sua versione convince abbastanza. Sì, è abbastanza interessante. C'è degli aggiornamenti? No, c'è un aggiornamento molto importante perché Lavrov, che è il ministro degli esteri russo, è partito per gli Stati Uniti e vedrà a Washington Rex Tillerson. Si erano già incontrati a Mosca. Che era andato Tillerson a Mosca. Poco tempo fa. Questo significa che, speriamo bene, per il futuro dell'ordine mondiale, Stati Uniti e Russia stanno cominciando a parlare di nuovo. A parlarsi sul serio. Sì, sì, sì. Speriamo. Non avete idea. Ne avete idea di che cosa c'è in ballo? Certo, cioè, dalla Siria a tutto il resto, praticamente. Cioè, non si tocca dei nuovi in Libia, equilibri. Tanto per dirne una, a noi italiani. La cosa più moltissimo. Cioè, non tocchiamo palla in Libia se non mettiamo a posto. Hai visto che adesso abbiamo dovuto riconoscere che Haftar è un protagonista. Sono arrivati. Abbiamo giocato per tutti questi mesi con quello debole. Adesso finalmente abbiamo scoperto che il Pipita è l'altro. Rido perché qua in questa nostra trasmissione credo 3 anni che lo diciamo, 4, non so più. Dai Mario, adesso lasciamo con stare. Il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, marzo 2017. Il pregabalin nella sciatica acuta e cronica. La sciatica è un problema comune, chi è che non ne ha sofferto, ed è una malattia disabilitante. E c'è poco nell'armamentario terapeutico, e soprattutto sono farmaci, gli antiflogistici, non steroidei e i cortisonici, che sono spesso di limitato uso e qualche volta con notevoli effetti collaterali. I ricercatori hanno verificato l'efficacia di un farmaco, il pregabalin, che ha un notevole successo nel dolore, in un altro dolore neurologico che è il dolore neuropatico. Allora sono stati sottoposti per 8 settimane al trattamento con pregabalin 108 pazienti con sciatica, mentre invece 101, sempre con sciatica, hanno avuto il placebo. Il risultato veniva misurato a 8 e 52 settimane, da qui sciatica acuta e cronica, nell'intensità valutata con una scala del dolore alla gamba. 0 assenza di dolore, 10 il dolore massimo. A 8 settimane il punteggio era di 3.7 per chi è che aveva fatto il pregabalin e di 3.1 per chi è che aveva fatto il placebo. A 52 settimane di 3.4 per chi aveva fatto il pregabalin e di 3 per chi aveva fatto il placebo. Quindi addirittura stavano un po' meglio quelli con il placebo. Quelli che avevano fatto il pregabalin in più avevano anche una notevole serie di effetti collaterali, giramento di testa in primis. Questo a dirci che il dolore non è tutto uguale e che anche gli studi negativi servono. Astenetevi dal consumare il pregabalin se ci avete lasciati. E per chiudere oggi, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi coltiva soprattutto il silenzio e la pazienza contro i malesseri del nostro tempo. Franco Battiato, Un'altra vita. Certe notti per dormire mi metto a leggere e invece avrei bisogno di attimi di silenzio. Certe volte anche con te sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente, senza una vera ragione. Sulle strade al mattino il troppo traffico mi sfianca, mi innervosiscono i semafori e gli stop, e la sera ritorno con malesseri speciali. Non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita.